grigio. Grigio. Grigio. Interessa che cosa, vabbè. Sì, ma tu ne vuoi troppo. Parla io, poi ho 200 euro meglio. Ma a me mi va bene normale che vale di più, vale, ma sto scherzando. Dimmi che modifiche avevano fatto al tuo. E cioè infatti l'uscita quanti? Ma cosa ne fai? No, è così, l'hanno modificato. Tu l'hai pagato troppo, ma lo è, troppo, troppo, troppo. Scusa, io pago 200. Un bivuccio 31 o 70 euro, sono 270, al limite, mai 350. Vabbè, ma niente, la mania, e fai modifiche, contro modifiche. Ma poi, scusa un attimino, perché te lo stai vendendo? No, perché te l'hai comprato? Io sono qua, sono tranquillo, ma non è, perché qua, grazie a Dio, non disturbo nessuno. No, io ho un filmetto che è a fianco a me, 50 metri qua su, e 70 metri circa, 80, cioè se Maria e non disturbo, grazie a Dio. Poi, in lineare, non andrà quasi mai, che non me l'ha fatta. Se nessuno mi sono tu, se te ne frega, scusa, io se nessuno mi spiego la televisione e parlo con gli amici. Se voglio con la televisione, spiego a chi vuole la televisione. Perché tu vedi, non sei ancora solo, ma è... Ma non sai quanta pubblicità mi arriva al telefonino, ne ho le male piene. Pubblicità incazzate. Io ho vinto telefonini, poi ho visto su Amazon, che palle, guarda. E lo so, io le cancello sempre. Ma più ne cancello più ne arrivano. A meno che io devo cancellare tutto quanto, WhatsApp, Facebook, tutta questa roba qua, vedrà che pubblicità non arriva più. E vabbè, ma quando mai vuoi entrare su Facebook, entro su Facebook, su internet, entro su internet, capito? WhatsApp. E anche il caldo, ma vabbè, pacca di dai. Così, pelato. E che epita. No, io me ne devo tagliare. Vabbè, questi giorni stavo trabaccato, ma non è. 4 giorni e mezzo pieni pieni. Anzi, abbiamo riposato tra sabato, domenica e lunedì. E oggi abbiamo finito l'una. No, è ancora qua. Quando si trova un mezzo grande, perché io non ne ho trovato. Ci vuole molto carro. La collapa è tua. Ma è piccolina, ma non è, quanti viaggi ne fa? E quanto li costa? Ma noi, Milano e Marco, Marco Vittoria, che dici, a me interessa molto caro, quanto è 50 euro per fare un viaggio via, non puoi pagare 100 euro a te a fare 4 viaggi. Ti va bene a te, ti fai 3-4 viaggi. E vedi che non ne conviene a lui. Lui ha preso un mezzo grande, 50 euro fa un viaggio unico. Te lo sto dicendo. Io ho chiamato pure Francesco e niente, non ne fa, ha detto. C'è di tutto, plastica, ferro, legna, c'è un po' di tutto. Uno che va all'autoparco se la divide lui stesso. Aspetta, l'autoparco non paghi niente, innanzitutto. E zitto via Saimi, ma devo avere il formulario però, Poi dici che è a casa tua, in campagna tua, che ha detto un po' di roba, a casa tua, sì, ma ci vuole in mezzo grande, capito? Niente. Io se trovo qualche uno, è che ero impegnato questi giorni mattina e sera, quindi, settimana scorsa. Ho iniziato il martedì, abbiamo fatto martedì per quelli di giovedì e venerdì, e poi ho iniziato oggi, sono 4:30. E io è uscito a lavoro per i ponti, l'abbiamo fatto insieme. Una villa qua a fianco dove abito io. Tutte le ringhiere, porta finestra, porta finestra in ferro, e tutte le finestre c'è di ferro che per mettere i dalli praticamente, tutte levigate e poi veneziate. No, ci mettevamo all'ombra, la casa è molto grande, la villa, sopra e sotto, fa il giro, giù c'era l'ombra, facciamo la mattina sotto, il pomeriggio facciamo sopra che c'era l'ombra, in tutto erano 27 pezzi. E la gara si è decida, dai. A levigare la mattina sera abbiamo fatto tutto quanto, ma a verniciare moletta, no, non puoi usare la moletta, il trapano con le spazzole d'acciaio. Trappano, abbiamo usato spatola d'acciaio e poi la casa a vetro. E abbiamo fatto il culo. Infatti gli ha chiesto troppo poco. 5,50, ma l'ha battuto ciglio. Ce l'avevi già avuto qua. Vabbè, ormai fatto. Poi voleva fare il cancello, voleva fare, e gli ho detto, ascolta qua, minimo per lì 200 euro. E vabbè, vediamo più da, insomma, ha detto, va bene, come vuole. Qua se vede la villa è enorme, bella, ma non è. È enorme, solo è enorme. Quindi, due famiglie complete, altri tre ce le posso abitare. Tu lavorarci il viale non è cosa mia, neanche tutta la tua strada, però è in zona vicina, capito? No, devo girare veloce l'assalto, proprio l'assalto di San Camillo all'incirca. Aspetta che mi tocco queste cuffie, mi metto l'altro microfono che gli orecchioni mi sta facendo, aspetta un attimo. Che capita? Padova. E sotto si passa, ok. Come masso sì? Ho messo le figlie a zero, non ti sentivo più. C'è un po' di guerrema, raga. Che cosa? Adesso è tutto aperto. 6 su 3, 9:30. Aereo chiuso, chiuso, ti porto, prova. Santiago 2. No, lo squelce, le fighi. Uno è lo squelce, l'altro è le fighi. Lo squelce è a zero. C'è la voce molto bassa poi tu, c'è un po' di QRM. Quando tu molli, poi c'è il QRM forte, allora devo abbassare. Quando fa 20 devo alzare. No, che mi fai dare gli orecchioni. Qui tutto gonfio, lì. No, mamma mia, no, no. Ma non ti nate, va. Che di loco? Vai, tu le dai due vaccini e già se lo date. Signora Pira si chiamava. E cosa effetti? Beh, non gliela chiesto se c'è ancora la baracchina, scusa, è di Sant'Antonio. È lì, no. Se te lo va, già sta guidando. Lo so, sto cacchio di microfono normale, già. Ecco, adesso non riesco a più, ho passato il Nike Game. È troppo vicino, aspetta, guarda, lì. Ecco, come mi ascolti in radio così? Ecco, adesso non riesco più, anzi ci metto vicino al baracchino. Ehi! Allora, questo c'è una monopolina dietro, se io aumento, aumenta anche l'eco, capito? Io lo tengo maletta, ecco perché innesca. Ehi, c'è solo questa piccola modifica, boh. Ehi, guarda, adesso lei conosce la prova, 1, 2, 3, prova, e com'è lei? E guarda c'è la mente lei adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, prova, aumenta, è troppo vicino, capito, faccio la passata, non si dice. No, è con lì purtroppo, microfono, non è cosa avete detto. Tu hai usato il microfono, tu aveva usato. Hai, quello mi, ecco, tolto. Ho detto, lui aveva usato il tuo microfono, io poi con lo spinotto non ce l'ho, ma non è. Cazzo, a due, dunque, due, quattro, cinque, sei punte c'è, cavolo. Sì, come microfono già ne ho lì, ma non ne ho più, non lo posso usare, boh, non lo so anch'io. Sì, ma scusa, ma Fabio non è passato. Cosa vuoi di chiamarlo? Aspetta che mi devo guardare questi numeri. 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, E comunque io glielo chiedo indietro perché diciamo so che c'è tanti problemi, anche per la sua grichellona, capito. Cioè è inutile che lui ci lavora mezz'ora poi altri problemi allora. Penso di sì. Bisogna vedere quante vantaggi c'ha con le lampadine pure, ma non è. Vedi. Non è cosa fa noi, no? E beh, cosa... No, non te la fa. Poponi. Guarda, su Amazon, non è Amazon, questo è un altro, è Swish, spaziale, queste cose, baracchino, ragazzi, 490 i ringhiet, poi c'è un baracchino con l'attaccanale, c'è una pistola. Che baracchino è? Cioè? Quanti canali? E quanto? Baracchino è. Ecco, bravo, manda una foto, così lo vediamo. Se io ti ci vendete due, poi ti buone, anche la roba ti buone, ma. Sì. Ho messo lo squelch. Prova a parlare, Manuè. Sì, perché senza squelch, me lo correme per farsi il socio, qua. No, no, no, ma non è fatalizzare. È questo che ci mi è, ma non è. Questo che sta al nostro baracchino. Ho capito, di chi è? Ma non è di Sassari. E come fai tu a farlo arrivare qua? Manda la foto a vedere. Aspetta. Ah, questo lo conosco già, il palazzino. È un cesso inuit. Sì, ma non è. Fa calzare. Oh, è un cesso. Sfondate da tutte le parti, prende. 50 euro ci varito, non 78 euro. Poi ti devi spedire, spese di spedizione, affedirà e buonanotte. No, no, il Galaxy 19 euro di spesa. Questo è più leggero del Galaxy, quindi 10 di 11 euro di più. Massimo. 19 per il Galaxy, mi ha fatto vedere che cosa, io l'ho mandato 220 fa. Ma se penso è Emanuele. Vabbè, fa, per i tre canali, fa. Inuit CB 200, 294. Quale? Quello che c'ho io. Ah, no, è piccolino. ma meno da virgola. È più piccolo del Konix. Come la parte, non ho capito. La base è la stazione base, ma non è. No, 12 volte. Ti faccio la pausa con lì, me l'ho regalato. Poi poi ci avrò 25 anni. E io. Vabbè. E che non ci vuoi fare? Questo mi fa già la pensione mi è arrivata. Sono mezzanotte. Yes, oggi è 1° giugno. Da 1° luglio, è 1° giugno. E via. E io, ma vai. Ma io dormito, domani si travaglia. A me mi ha chiamato il cambio, se non mi frequenta, che era da solo, poverino, vabbè. E allora? sopra, mi sono messo a me, mi tira il nervo, mi ha fatto un dolore, diciamo che faccio un maccolino me. Ma cosa è che aveva la voce che andai? Ho visto a Gambero oggi, a te lo a Gambero. Dino Monte, Mario Scabocchia, Mario Lurra. Mica, mica c'erano le solo, prendeva per il culo, perdeva. E già quella battocalazione ha fatto il vuoto per la batteria. Mario Gambero. Non molto caro. Quel carruccio che usano gli vecchi che non riescono a camminare, mia batteria, quattro ruote. Ehi, come lì c'è? Infatti è un invalido, dove ci può camminare? Ma lavorava con lui, vi? La nostra licenziale c'è ben briaco. Ok, sei, un lotto separato. Bella vita che ha fatto là. Ciccio si bregava, si dormiva e lasciava la macchina sui binari posteggiato. Era forse a ferrovia, non era stata la multa. E guarda, padrona ha lavorato nel santo, per carità. C'aveva la macchina che aveva anche il frigo piccolino pieno di birra. Ehi, quando ho detto Mario, te lo posso offrire un caffè? Ma se mi vuoi avvicinare, a fare la cosa, esci via tu. No, non ho più visto. Ma chi già fracco? Ecco perché sono oggi più ricco qua. Tu che bel locale con il circolo degli anziani. Sì, ma noi controllate gli altri circoli e ben messo. Io degli anziani sto dicendo quello che ho messo a destra. Ehi, quello sulla destra, che c'è il biliardo pure, è bello il locale. Bravo, a sinistra c'è il bancone nel bar. Ebbene, non mi dica che l'ho messo bene, se vede anche il circo devo rimanere in campo. E dov'è? E c'è andato anche il mio cognato, adesso non ci fa più live all'altro circolo che c'è. Dunque, cosa vi posso dire? Allora, nella piazza dove c'è il Palazzo Azzurro, che c'è il panificio di Cesaraccio. Quello che rimane più giù, là ci va mia cognata. E che c'è il suicidio di piazzetta rimane. E mi hanno usato il mio cognato che io torno imbriaco, 4 anni. Ma allora, domani a Murichi, ecco perché sono a Maigana e Magliano. Che circolo è quello lì? Comunisti, cos'è? E poi di comunisti ne ha preso a chi lo fa per pagare tasse. Tutto nel biliardo l'ho fatto tempo fa. Ma se ho fatto il mio torno è bigliaccio. Se mi piace un bel bigliaccio qua. Ah, ma c'è tra mano, via. 251, eventuale bella. Io ho vinto due volte medaglia d'oro, quindi copero non è per vedere. Ma un piacere vedere giocare di nuovo. Me lo faceva anche Barlotto. Anzi, ma anche lui ci pagava 50 euro, come fai? Che... Poi il vincitore deve pagare tutti quelli che bevono, a parte quello, ma non è finita così. Più vinci e più devi pagare, più vinci, insomma, alla fine se vinci qualche coppa, c'è te cucciata e c'è coppa. Allora, va. Oh, ia, ia, vabbè. Io ho partecipato a Bianco e Nero e avevo avuto obbedienti. Poi mi è arrivato questo qua che a Chiluzza che stava al circolo, uno dei migliori, più bravi, e l'ero codenti, ma di brutto, si stava offendendo, voleva volare biglia, e come fa la cosa, non c'è nessuno, si sta guardando, fai vita che hai vinto tu e fregatene, infatti non è così incazzato, no, tu hai vinto ed ha perso, e lui lo poteva sopportare, che ha perso con me, capito? Infatti io ero un cigaretto, come quindi la bocciata, sembra un filotto vazio, ed non poteva variare. È un cecchino, ma l'ha definito qua. Poi ho giocato con una lesbica, ci ha preso di brutto, e l'ebriaca burro. Via che nero, via la mappa giù, altro mio scatello, di Matteo. Ho detto via la mamma, giù a tutti, agro via Moscatello. Adesso faccio anche seminatemi, pecora, Mattia va a dire tutto. Però ti sto parlando di, come posso dire, 10 anni fa, 12 anni fa. Certo che c'è ancora, però c'è qualche donna che in fondo mi biattica, quando sono andato a portare fumando, io passo in macchina e vengo, mamma mia, fa carità, no, no, a me si circoli non biattica, non ci vado più io, vado sempre il biliardo, poi faccio giocare e basta, tanto, non bevo, quindi, non posso bere neanche bicchier, io un tempo avevo solo bicchier, avevo magazzato, non ne posso bere la luce. Sì, solo acqua. Rare volte con un bicchiere di acqua gasata, rare volte. Ecco, che tassa, ma va tutta, zero, zero, zero. Ma non è che mi attira più di tanto, guarda. Come ho mollato una sigaretta, ma non è, sto così bene, qua. Oh. Sì, ma non è dipeso dalla sigaretta quello che ho avuto ora. È proprio... Quindi, non me ne frega niente, vado con l'acqua, il suo di ghiaccio ripamiato, icca e pietà, infatti non ci compa niente. Sì, Rosa ha mollato, molto ha mollato. Prima di me, molto prima di me. Vabbè. Adesso domani sono di fronte adesso a mangiare e via. E poi c'è, se ne vieni qua a mangiare, c'è anche mia figlia, sì, la mattina guarda il padre. Sì, mia sorella era morta. E 90 anni. Povera, se non riesci a guardare la televisione, non riesci a guardare la televisione. E beh, forse aveva una taglia che faceva il TVI. Ha detto, se abitavo io vicino, avrei preso un chilo fatto, gli avrei tenuto la portata, non la fa abitava più dentro. E ricoverato l'ospedale. E non mi sono scritto concetta su Facebook. collegate per Natalino. Ma tu non c'hai lì, guarda su, su Concetta. Ma lei dice da te fregnaccia per non dire dice calcoli renali, quello per l'altro. Io ci ho buttato altra gente invece che c'ha un problema al pancreas. Mia sorella è morta con il problema al pancreas. Ma io vi auguro che non sia che a quel male poi. Del resto non è che mi interessi più di tanto, non è la persona che io ci frequento qui. Ma mi siedo in faccia a lui, ho detto l'ambulanza, dice quando parlo non riuscivo a respirare, quindi non è roba di dire nel disco, fregatene. E io ho fatto la risonanza magnetica lì a Padalona, quindi e ho due riempiti del disco piccole e una normale grandetta. Ne ho tre praticamente, capito? Questo, se riesco a farlo, a fare il laser, ma qua in Sardegna non lo fanno solo a riguardo di Milano, a vera volta a Milano che c'è il coronavirus, ma sicuro sì. Voi prendete appuntamento allora? Ma fa male? Tutto! E perché io devo mettere in tutto, non posso, sono cardiopatico. Ma ha pagato? O pagherà solo il ticket, boh? Perché io ho messo su internet, non ho delle taglie, non c'è niente, mi è andato a Milano, boh? C'ho anche il dischetto dove ce l'ho nel disco, se me la fanno non mi pare vero, ma non è, fa carità. E anch'io devo dimagrire, cazzo mangio di manco, però se non riesco a fare un chilo che sta a fanculo. Non posso camminare su cardiopatica in bicicletta, non posso camminare da piedi di campagna per dici devi camminare molto. Certo, ma posso dirti di farti male l'anca e mi devo bussare. E stai sempre camminando, ma non è. Ma se lo mangiare la di Gage, così mi ricovereggia la deprimente organico. E allora, cazzo di apo, capo di aria. Con l'insalata vedi, va bene, solo l'insalata, ma mi raffai. Casino che devo quasi nuda, casino, ma poca roba, c'ho pa, mi sa che apro un frigo, mi do una bella peretta di formaggio e me la mangio. Girate via. Non so. Guarda, ora c'è la mia compagna, c'era qua, viene sempre sabato fino a domenica. E ho fatto delle bistecche in capocollo, ho fatto il barbecue qua, tra. Mi ha messo un po' di quella, quel materiale che vendono, per gli arrosti, c'è un po' di tutto. Cazzo, ma di tu, cazzo un po' che puoi cagarmi, cazzo, due bistecche si è bagnato. Mi ha fatto 4. Anzi, 4 per noi, 2 per uno e poi l'ha fatto altre 2 per i camici. E mi sa che stiamo organizzando a fare una seminata in Maroè con Gianni. Meia. Ma quello che ci è vicino alla bombista? La bombista, quella che riceve di fronte alla quasi della Copec. A dove era la Zemina? Cazzo, come la nostra grubice dove si mi avrà anche che, eh? Che 5 kg di 30 euro, fai tu. Sei a 6 euro. Ehi, sempre 5,35, fai tu. Se per 5 non è 30, ma non è. Ah, scusa, fai 5 per 6 lo stesso, è 30, sono 30 euro, non 35. Ma tira tutte, ma non te lo dai primo latte, ma come le balle. Primo latte non te le dà. Il primo latte non te lo dà. Cazzo. Un pezzo di modo lo divino. Comunque stiamo cercando di organizzare, ma che giorno ce la facciamo una seminata? San Virigiano, forse anche altri, chiamo anche Pomponio, i Fucchi. Adesso vediamo, che vuole andare anche a pescare già ne vuole andare. Però va ancora, se il zetto non mi fida assai, no? È troppo picciolita come macchina, ragazzi. Ma piccolissima la bocca. Non mi cade nulla. Perché già la metto io. Ci aggiungiamo nella 600 e poi ci ho pensato, ma poi c'è la macchina più grande, e la sua nuova nuova. Comunque non so, bisogna domani passare al meccanico e gli dico se li porto la macchina, se abbia luci. Da forte me l'ha giusto, perché mi piacciono le macchine. Siamo di torno alla mica mia. Certo, se la voglio me la regala, fai io non sono dietro. No, c'ha 20 anni. Sì, c'ha solo un colpo da parte che gliel'ho dato io, colpo. Ma questa è perfetta messa, è macchina. Ah, 300 e passa 1000 km. Certo, ma noi, ciao, motore ben riuscito. Certo, la conosco bene perché un tempo quando ero con lì ho fatto il conto, non so quanti chilometri abbiamo fatto alla Monte Lacqua, e cambiavo sempre la macchina, non ho mai avuto problemi, mai. È ben riuscita perché la mia Ford non è a 300.000 km. Ma 1100 e la 600. Vabbè, lui è. No, che mi sembra l'aveva fatto, non me lo ricordo, ma non è. Eglia. Ma la conta che dove c'è scritto così, capito? Non lo so se conteniamo comunque. Comunque a me non mi piace. A me piace perché sono rapidi, e quello però per parlare. Ah, cioè domani io devo chiamare il caratteristico, ho fatto per l'GPS, però c'è quella scusa. La macchina mia non mi cammina, devo portare un meccanico. A chi si dica torna a Malarruta, mi dici no, l'avevo già dato il soccorso una volta e non lo devo più, domani siamo a giugno, quindi è un mese prossimo. Certo, come fa a camminare Manuel? Chiamo io, chiamo a loro, la centrale poi e mi fa chiamare dalla caratrice, caratrice Caggiano, e mi chiama a me. Cioè, caratrice. Ma come fa? La solleva leggermente, perché c'è un tocco il disco per terra a me. E allora, mandami per domani che lo... per 30 anni mi va bene. E io? Poi mandi il numero, magari così domani lo chiamo. Ma no, per messaggio, perché ma no, io non ce l'ho appena, qua mi devo alzare dai cucini anche. Ma è capo. Eia. Eia, c'è arrivato. E c'è arrivato, che spiccito. Dove fino ancora per il non penso lo sia ancora qua nel giornale. Intanto, Manuè, da casa mia fino a via Magellano, nella Tirozzi. L'Intas. Ma non ci lavora attualmente. Cioè, fratello si lavora dalla Merista. Ninja si pietro meccanico e via Magellano me. Là c'è cosa, vedi? Valentino che lavora, è il figlio di Gio Pietro e boh. E Pietro Linza, sì, sulla sita, prima del circolo. Aspetta, ma è da poco sto lavorando lì. No, tu sei bene di passano allora. Tu stai parlando delle cose della Mirissa. E la Mirissa è il fratello di Pietro Meccanico, che è dietro all'angolo. No, non ricordo come si chiama il fratello. Io vado dal meccanico, che è Pietro, che c'ha una panna rossa, e abita. Tutto il palazzo è loro, me. Cioè, stai tornando a me. Il fratello è soltanto il carrozziere e boh, l'altro è solo meccanico. Cazzo, però tuo fratello è in carrozzeria, ecco perché non l'ho mai visto io. Intanto via Magellano, quella è già un'altra via, dove era vostro fratello, è a fianco. E a me mi ha sempre servito bene, io sono anni che vado a lui. No, è bravo, dai. E c'è Valentino che lavora. E quel ragazzo è un cranio, è bravo, eh. A me mi ha svoltato il turbo, poi me l'ha ripiantato. Ma cosa no, se l'ho telefonato quando è il sabato. Eia. È Magrolino, è amico di mio figlio. Ehi ragazzo, metta mio figlio ruba 42 anni, 43. Ragazzo, ma non è 12 anni, 13 anni, mi fa. Per forza, domani proprio lo chiamo e glielo dico. E io ho due passi. E due passi allora, se va bene. Che so fare. Cazzo buono lo vedi, ma lo è, io mi ci cocco, cioè io mi ci troppo. Ma insomma che le cose blu c'è un'antenna di baracchino, chi è? Ah, lì abita. Ho capito. E poi ce n'è uno a BTV di antenna, di Garepo. Basta più entrare. Ah sì, è quello che c'è a Sant'Orso invece, sopra l'edificio Cesaraccio c'è anche un bar, sulla sinistra in alto c'è un'antenna, ma due antenne in previso. Eia. Vabbè dai, Manuè, ci sentiamo domani, dai. Buonanotte, alle prossime. Ciao, Gigomi, ciao, buonanotte.